Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, partiamo anche dalla borsa, dove di nuovo c'è una pressione, ma in questo caso non sui titoli bancari. Cala Tenaris del 3,30%, Yux del 3%, Fiat Chrysler del 2,90%, CNH Case New Holland del 2,40%, Buzzi Unicem meno 1,70%, bene soprattutto Telecom oggi più 2,1%, ST Microelectronics più 0,80%, Eni mezzo punto percentuale di rialzo, come Fineco Bank e Luxottica. A proposito di Luxottica, parleremo oggi del Mido, ossia dell'appuntamento più importante a livello mondiale per l'occhialeria, in cui l'Italia è leader a livello mondiale, non parleremo chiaramente solo di Luxottica. Avremo anche un approfondimento sui dati di un altro grande gruppo che non c'entra nulla con l'occhialeria, mi riferisco a Salini in Pregilo, che aspettiamo i dati perché praticamente a mercato chiuso. E avremo anche un approfondimento sulla vicenda Opel. Perché? Perché dopo che ne abbiamo parlato quando uscì e dopo l'iniziale muro opposto dai sindacati tedeschi metalmeccanici IG Metall, in realtà l'acquisto si sta già concretizzando e potrebbe avvenire a inizio marzo, quindi in tempi obiettivamente molto stretti. Lo scrive oggi la Frankfurt Allgemeine Zeitung, secondo la quale appunto General Motors e PSA, Peugeot Citroën, vogliono chiudere l'accordo prima del Salone dell'Auto di Ginevra, che appunto inizia il 6 marzo, e sarebbe un'operazione nel risico dei costruttori di auto obiettivamente lampo, nel senso che da quando è arrivato l'annuncio, al di là delle prime obiezioni, l'operazione è andata avanti. È ancora invece sospesa, ma lo dico senza nessuna polemica, il Monte dei Paschi di Siena dalle contrattazioni. Ma perché ne parleremo oggi? Perché secondo il Financial Times le proposte del governo italiano di ricapitalizzare Monte dei Paschi, tra l'altro i soldi a questo punto ci sono visto che il decreto salva banche è passato, sono nel limbo da dicembre, perché la Banca Centrale Europea, a cui spetta la supervisione della banca anche del Monte dei Paschi, e Bruxelles, a cui fanno capo invece tutti i temi inerenti agli aiuti di Stato, hanno visioni differenti su chi si debba far carico del salvataggio e sulle loro responsabilità. Questo crea uno stallo che lascia sostanzialmente ormai da 2 mesi in sospeso diverse questioni, tra cui l'ammontare del sostegno pubblico concesso, l'ammontare delle perdite a carico dei creditori, la dimensione della ristrutturazione che deve consentire appunto a risanare la banca senese. Secondo alcune fonti ci potrebbero volere addirittura diversi mesi per risolvere questa saga, che ha comunque, questo lo scrive Financial Times, ma come non essere d'accordo, danneggiato la fiducia nell'intero settore finanziario italiano, e anche di questo parleremo. Come sempre, visto che davo in apertura i titoli, vi do anche il rapporto euro-dollaro a 1,0580. Per quello che riguarda invece le notizie che in parte avete già ascoltato nel nostro GR24, oggi nel Consiglio dei Ministri c'era anche il tema della riforma del pubblico impiego, e resta la possibilità di individuare idonei, ma in numero non superiore al 30% dei posti messi a concorso, quindi questo è il tetto sugli idonei. Contro gli abusi di precariato scatta il monitoraggio, le ultime novità sono contenute appunto nella bozza, e della bozza si occupa il vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Arioli, all'interno dei 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, ricordo, trasmessi anche su RDS. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. con Alberto Orioli. Nel giorno del via libera alla riforma del pubblico impiego italiano c'è una notizia che arriva da 15.000 km di distanza e sembra davvero una beffa o perlomeno un paradosso. Il presidente della giapponese Panasonic, Kazuhiro Tsuga, ha imposto ai suoi 100.000 dipendenti di lavorare meno per produrre di più. Il nuovo motto che tutti gli impiegati sono invitati a seguire è diventato «siate efficienti e meno occupati». Più nel dettaglio, il presidente Tsuga sconsiglia di restare in ufficio oltre le 8 di sera e chiede di concentrare maggiormente i propri sforzi lavorativi in meno tempo. L'orario settimanale diventa così di 37 ore e 45 minuti, con un uso limitato degli straordinari fissato a 80 ore al massimo. Naturalmente ciò può accadere solo in Giappone, dove la cultura del lavoro è perno della società e dove il tempo di lavoro normalmente è tra i più stressanti del pianeta. Concentrare la propria fatica è anche questo un modo per aumentare la produttività che, come insegna sempre il caso giapponese, non è solo un fatto di presenza anche se prolungata. Tornando al pubblico impiego italiano, qui il tema si ribalta. Con le norme varate oggi, i furbetti del cartellino saranno perseguiti finalmente con severità. E anche questo sarà un modo per aumentare la produttività del personale pubblico, perché certo, per quanto si possa fare affidamento sulle filosofie orientali, se la presenza è sempre solo assenza, è davvero difficile che la produttività possa in qualche modo materializzarsi. Non ci riuscirebbe nemmeno un monaco zen. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, giustamente mi fa notare un ascoltatore che non abbiamo dato gli indici: meno 0,33% Milano, meno 0,30% anche Parigi, meno 0,30% anche Londra, e invece Francoforte fa meno 0,50%, Dow Jones invariato. A proposito degli Stati Uniti, il segretario del Tesoro, il ministro dell'economia americano Steven Mnuchin, ha detto che l'amministrazione Trump sta valutando significativi cambiamenti di politica economica, dai quali si attende un'importante spinta alla crescita. Addirittura l'obiettivo di una crescita al 3% è decisamente realizzabile, potrebbe essere centrato a fine 2018. La riforma fiscale con cui la Casa Bianca sta lavorando con i repubblicani al Congresso dovrebbe arrivare prima della pausa estiva, della pausa di agosto. Veniamo all'Italia. Allora, oggi il Centro Studi Confindustria sottolinea di nuovo che nell'area euro l'Italia resta il fanalino di coda, sfrutta bene il traino esterno, quindi l'export, ma resta il fanalino di coda con una crescita inadeguata ad uscire dalla crisi. È la cosiddetta congiuntura flash del Centro Studi Confindustria, più 0,2% la crescita del PIL nei primi tre mesi di quest'anno, quindi il ritmo definito lento. Tra l'altro più 0,3 forse dopo, ma comunque siamo, e sottolinea Confindustria, ben al di sotto della crescita media dell'area euro, vicino al 2%. Frenata la nostra crescita anche dall'incertezza specie politica. L'industria e l'export continuano a trainare il PIL, la domanda interna invece risente, quindi i consumi dell'instabilità politica, quando ogni sforzo andrebbe dedicato al rilancio dell'economia e al sostegno dei posti di lavoro. Il credito infine resta erogato con il contagocce, mentre i tassi sui titoli di Stato iniziano a riflettere tensioni economiche, non solo. E a questo proposito, due notizie non buone arrivano dall'Istat una e dall'Inps l'altra. Allora, l'Istat fotografa l'andamento del consumo, inteso come vendita del commercio al dettaglio, nel 2016 e, diciamo, certifica che non si è mosso nulla, più 0,1% rispetto al 2015, addirittura in valore. In volume c'è stato anche un leggero calo dello 0,3%. Sono aumentati gli acquisti solo nelle imprese di maggiore dimensione, più 1,2% quelle con più di 49 addetti, mentre sono diminuiti ancora dalle imprese più piccole, che hanno visto una flessione dell'1,8%. E poi l'INPS, che segnala come calano di nuovo i rapporti di lavoro nel settore privato. Questo è un dato che abbiamo già visto svilupparsi in tutto il 2016, ossia il venir meno della parte grossa della decontribuzione, gli 8.000 euro per tre anni al mese, fino a 8.000 euro per tre anni. come vantaggio della decontribuzione 2015 ridotti a 4.000 euro all'anno per 3 anni nel 2016 hanno creato già un freno nei nuovi contratti, ma soprattutto quello che abbiamo spiegato più volte è che se l'economia continua a crescere, e mi ricollego a quanto anche fotografo oggi il Centro Studi Confindustria, continua a crescere con un tasso così modesto, è ovvio che chi doveva assumere lo ha fatto nel 2015 sfruttando il combinato disposto Jobs Act e da gennaio del 2015 la decontribuzione. E il resto, insomma, se l'economia non riparte o riparte con questi tassi da tartaruga, è ovvio che non crei posti di lavoro per decreto, e chi ha assunto probabilmente ha già assunto chi doveva, no? come organico, tant'è che il dato è molto chiaro oggi dell'INPS: crollano, allora, le assunzioni complessivamente hanno fatto meno 7,4% nel 2016, sono crollate quelle stabili meno 37,6%, con 700 e che non sono licenziamenti, è il raffronto tra quanti tempi indeterminati furono fatti nel 2015 e quanti sono stati fatti nel 2016. Ne sono stati fatti 763.000 in meno, pari al 37,6% in meno rispetto al 2015. Questa variazione sul 2015, secondo l'INPS, va collegata al forte incremento che si realizzò nel 2015, appunto perché c'era l'abbattimento integrale dei contributi previdenziali per 3 anni. E comunque i rapporti lavorativi sono cresciuti complessivamente di 340.000 unità l'anno scorso. Il problema è che sono aumentati soprattutto i posti non a tempo indeterminato, come appunto stavamo spiegando, ma i posti cosiddetti più precari o comunque a tempi determinati o altre forme di collaborazione. Poi segnalo l'indagine che la Polizia di Stato di Bari, in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha svolto in Puglia. Ha arrestato 6 persone ritenute responsabili di intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro aggravato e continuato, truffa aggravata e truffa ai danni dello Stato. Stiamo parlando di caporalato, come si chiamava una volta. Questo dopo la morte di una bracciante agricola, Paola Clemente, avvenuta nelle campagne di Andria nel 2015, il 13 luglio. E la procura di Trani ha scoperto, tra virgolette, che le braccianti sfruttate nei campi percepivano ogni giorno 30 euro per essere al servizio dei caporali per 12 ore, dalle 3.30 del mattino, quando si ritrovavano per essere portate nei campi a bordo del pullman, alle 15.30, quando ritornavano a casa dopo essere stato a lavoro tra Taranto, Brindisi e Andria. Il loro compenso, in base ai contratti di lavoro, avrebbe dovuto essere di 86 euro, cioè 3 volte più alto. Ma quindi percepivano un terzo della paga spettante. E poi in soli 3 mesi l'agenzia triennale che aveva reclutato i braccianti ha evaso contributi per 48.000 euro. Mi aspetto una posizione molto dura delle organizzazioni degli agricoltori sul tema, che condanni il caporalato, non me ne frega nulla dei motivi economici, non si può tollerare una cosa del genere, punto e basta. E mi aspetto anche delle posizioni molto dure dei sindacati, che immagino avessero denunciato tutto questo e non avessero chiuso un occhio. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo da una buona notizia, che come sempre quando ci occupiamo di settori di eccellenza del Made in Italy, le notizie, ieri parlavamo della moda, dell'inizio della settimana della moda, sono buone. Il problema è che non sono buone quando ti occupi dei consumi interni, delle imprese che lavorano principalmente col mercato interno, del mondo del commercio e a questo punto anche dell'occupazione. Ripeto, che mi sta scrivendo, non sono stati licenziati 630.000 lavoratori a tempo indeterminato. La differenza tra quelli assunti nel 2015 a tempo indeterminato e quelli assunti a tempo indeterminato nel 2016 è del 36% in meno. Allora andiamo e cerchiamo di capire in questa settimana importante, già ieri lo ricordava Giulia Crivelli, la capacità che ha avuto Milano e il sistema fieristico di mettere assieme moda con pelletteria, con occhieria, cioè operatori che sono su settori molto vicini, molte volte contigui, delle volte anche sovrapponibili, perché lo stesso marchio è presente sia nella moda che nella pelletteria che nell'occhialeria. beh, la capacità di unire questi momenti espositivi in un'unica settimana. Pour me a taste of something good. Allora, ieri ricordavamo come la moda anche nel 2016 abbia fatto un più 2,3% nel fatturato, pari a 13 miliardi di euro. Nel frattempo appunto apre anche la 47esima edizione del Mido, che è il più grande evento internazionale dedicato all'occhialeria, chiamiamola, si chiama Eyewear adesso, tutto è wear. È uno che fa costumi, come lo chiami? Allora, dicevo, dati dell'occhialeria italiana, produzione 2016 più 3,7%, quindi buono il dato. Stiamo parlando di 862.000 aziende complessivamente, 17.000 aziende, scusatemi, 862.000 addetti. L'export vale più 3,6%. E sul 2015 pari a 3 miliardi e 600 milioni. Bene l'export, sugli occhiali da sole più 7%, 2 miliardi e mezzo. Sulle montature invece meno 2,8% a 1 miliardo. L'export in volume è cresciuto del 2%, 100 milioni di paia di occhiali abbiamo esportato nel 2016, più 2% sul 2015. Anche le importazioni sono aumentate del 3,3%. La bilancia commerciale dell'occhialeria italiana comunque resta in ampio attivo di 2 miliardi e mezzo, più 4% rispetto al 2015. Cirillo Marcolin, presidente del Mido, buonasera. Buonasera. Allora, beachwear, chi fa costumi? Swimwear, no, adesso va bene, era una battuta, so benissimo che si chiami beachwear, però noi continuiamo a chiamare occhialeria e non eyewear. Anche se voi fate un po' i fighi con l'eyewear, cioè l'occhiale che si indossa, non è più l'occhiale solo per la vista, lo so Marcolin, non mi critichi subito, mi dice dove, quali aree sono andate meglio l'anno scorso quanto a export, visto che da lì dobbiamo partire come dato positivo? Beh, innanzitutto, come lei ha anticipato, sicuramente è stato ancora un anno positivo, perché siamo cresciuti in un momento internazionale complicato. È vero che bisogna ammettere che quest'anno 2016 è stato un anno di crescita a una cifra, quando invece agli anni precedenti eravamo abituati a crescere a due cifre. Relativamente ai mercati di riferimento, quest'anno abbiamo evidenziato una crescita importante nel vecchio continente. Sostanzialmente la Spagna e la Germania hanno dimostrato un'importante crescita dell'export, e questo a differenza degli anni precedenti, quando invece vedevamo crescere l'export nei paesi emergenti e negli Stati Uniti. Quindi credo che i due fattori principali siano il driver dell'occhiale da sole, che è cresciuto mentre l'occhiale da vista ha sofferto, e l'Europa, che è ancora un punto importante di riferimento. Il 50% dell'export è Europa. Il 50% che è tornata a crescere, appunto Francia più 3%, che da sola ha una quota importante. Da cioè sola ha una quota del 14%. 14%. Germania è più 7%, Gran Bretagna più 3% e appunto Spagna più 9%. Parlo di aumenti dell'export in valore. Come è andato negli Stati Uniti? Poi veniamo alla nota più dolente, che sono i consumi interni. Stati Uniti e Asia, Marcolin. Gli Stati Uniti sono cresciuti del 2,6%, quindi sicuramente è sempre un dato positivo, ma più rallentati rispetto all'Europa, e l'Asia ha sofferto in testa alla Cina. Quindi dobbiamo fare anche una considerazione che i paesi emergenti, dove tutti puntano, ma bisogna guardare poi anche le varie economie, come crescono. Quindi in questo caso credo che le aziende abbiano saputo cogliere altre opportunità e si sono riconcentrate sui paesi maturi. Credo che la lezione che impariamo è che possiamo ancora crescere anche dove siamo già cresciuti nel passato. Allora, veniamo ai consumi interni. Invece, i consumi interni hanno recuperato parte della perdita della crisi dal 2007, siamo cresciuti del 2,2%, però l'ultimo trimestre ha rappresentato un'importante frenata, quindi i risultati sono un po' inferiori rispetto alle nostre attese. Senta, anche in Russia il settore che lei rappresenta è riuscito a crescere tantissimo, più 20%, lì non avete problemi di embargo, giusto? Voi? Non abbiamo problemi di embargo, diciamo, come gli altri prodotti dell'accessorio, questo non scontiamo, questo scontiamo evidentemente un problema dell'economia russa. Quest'anno c'è stata un'importante inversione di tendenza, quindi ci auguriamo che sia di buon auspicio per ripercorrere percorsi di crescita. Va ricordato però che, a differenza degli altri comparti, la Russia ha un'incidenza minimale, non è così importante come il settore dell'occhialeria, della cazzaturieri, per fare un esempio. Ecco, senta Marcolin, la notizia che vi riguarda, insomma, più importante che vi riguarda da vicino, è la fusione tra Luxottica e Silor. Abbiamo spiegato molte volte che non era un acquisto francese perché Del Vecchio mantiene la maggioranza, per carità. Però Marcolin ha creato, cioè, con Louis Vuitton Moanessi, una joint venture. Allora, lei vede un, come si chiama in gergo, un consolidamento del settore? Cioè andrete a essere sempre meno produttori, sempre più grossi? Ma io credo che da presidente dell'associazione posso guardare con positività queste grosse situazioni di evoluzione di questo comparto, perché dimostra che questo comparto è un comparto effervescente e vitale. E quindi questo è solo un dato positivo. Per quanto riguarda poi capire cosa potrà succedere in prossimo futuro, è difficile. Ritengo però di poter dire che se i grandi gruppi hanno una grande attenzione non solo agli altri comparti che hanno avuto negli anni precedenti, ma oggi cominciano anche a guardare con grande attenzione all'occhialeria, lo faranno perché colgono quanto di buono già gli italiani hanno fatto, a partire dal prodotto, ma soprattutto dalla capacità della manodopera qualificata di costruire un prodotto adeguato. Quindi vedrei un futuro positivo, perché evidentemente se fanno un investimento è per crescere ulteriormente, essendo dotati anche di risorse finanziarie, potranno solo portare un ulteriore slancio al manufatto italiano. Senta Marcolino, un'ultima cosa. Voi avete come primo mercato di riferimento, secondo è la Francia, ma il primo sono gli Stati Uniti. Hanno il 25%, cioè un quarto degli occhiali che facciamo, delle montature, va verso gli Stati Uniti. E tra l'altro è cresciuto del 2,6% l'export. Temete una politica di dazi o una chiusura doganale americana? Guardiamo con attenzione l'evoluzione assieme ai nostri colleghi del comparto dell'accessorio, perché evidentemente l'effetto delle elezioni di Trump e le considerazioni anticipate ci mettono qualche preoccupazione. Oggi guardiamo con attenzione l'evoluzione, perché per noi è fondamentale che gli Stati Uniti continuino a trainare lo sviluppo dell'export e della produzione italiana. Sono un mercato molto importante, molto attento soprattutto al concetto della qualità, del rapporto prezzo qualità e della moda, cosa che gli italiani hanno saputo fare da sempre e riescono ad innovare. Quindi per noi è fondamentale che non ci siano prese di posizione di carattere protezionistico. Indubbiamente il TTIP è stato chiuso, ci auguriamo che al di là dell'accordo col Canada non ci siano sorprese negative nei confronti nostri e dell'Europa in generale. Allora, grazie, in bocca al lupo a tutti gli addetti alla filiera, come si dice in gergo, del settore dell'occhialeria italiana, che appunto oggi a Milano è contento di questa cosa che siete riusciti a fare: moda, pelle, occhialeria nella stessa settimana? Noi sì, sono contento, perché credo che siamo parte integrante come settore dell'occhialeria. Abbiamo iniziato un percorso di condivisione assieme agli altri, chiamiamoli cugini dell'accessorio, ancora nel 2005, quando su sollecitazione di Confindustria abbiamo creato la Federazione Italiana Accessorio Moda Persona, che peraltro vede il sottoscritto ancora come presidente oggi. Il secondo salto, cioè quello di avvicinarsi al mondo del tessile abbigliamento e ipotizzare, che non è più neanche un'ipotesi perché è una realtà, di costruire una nuova federazione, comporterà evidentemente una federazione importante a livello nazionale, perché sarà la terza federazione. Manterranno le specificità le associazioni, ma ci saranno dei punti in comune dove riusciremo evidentemente ad essere più efficaci ed efficienti, ma soprattutto aumentare la rappresentatività a livello istituzionale. Allora, di nuovo in bocca al lupo a lei e a tutti gli addetti del settore. Grazie al presidente di Mido, Cirillo Marcolin. No, mi scrive un ascoltatore, Domenico da Bari: ma ogni tanto non può ricordare qualche eccellenza del sud, se c'è da ricordare eccellenze sempre al nord e poi tirare, diciamo, quella cosa che assomiglia alla cioccolata sempre al sud? No, guardi, abbiamo fatto anche degli approfondimenti, comunque raccolgo l'invito, ci mancherebbe, faremo più attenzione. Se si riferisce alla classifica, le giuro, visto che domani avremo la classifica, che facciamo il possibile per cercare delle notizie anche in altre regioni, per non dare, diciamo, sempre una classifica troppo sbilanciata al sud. E cosa ci posso fare? Non è che me ne posso inventare, però le notizie, per quello che riguarda il sud, abbiamo parlato anche recentemente con il presidente di Svimez, ci sono delle cose che si muovono. La Puglia è sicuramente, visto che lei mi scrive dalla Puglia, la regione più dinamica. Comunque raccolgo l'invito, faremo più attenzione e magari anche qualche approfondimento in più. (349) 238 6666 per sms e whatsapp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la borsa ha chiuso meno 0,37%, parliamo di questo dopo, ma anche di Monte dei Paschi, Salini in pregilo per quello che riguarda i temi e la vicenda Opel. Focus Economia. (17:38) Allora andiamo sulla giornata finanziaria, non solo per la borsa, ma anche per alcuni bilanci che sono usciti, 2016 non solo. Allora, per quello che riguarda la borsa, dicevamo meno 0,35, poco mossa, ha recuperato invece un po' Parigi che chiude invariata, Francoforte meno 0,40, Londra meno 0,45. In questo momento segnalo Telecom Italia più 1,51, Unicredit più 1,1, ST Microelectronics più 0,90, ne parleremo fra poco, mentre male Tenaris meno 3,70, Yux Saint-Aporté meno 3%, come Buzzi Unicem, Case New Holland meno 2,80, come Fiat Chrysler, Biper Banca meno 1,70, come EUBI Banca meno 1,30%. Poi andremo anche sui migliori e peggiori della seduta. Qualcuno mi continua a scrivere di Monte dei Paschi, adesso ci arriviamo a Monte dei Paschi, non abbiamo enormi novità, ma insomma preoccupa quanto ha scritto il Financial Times oggi. Tra l'altro ho visto prima un'agenzia in cui la Banca Centrale Europea tende un attimo a placare, diciamo, le speculazioni del Financial Times, un accordo sulla ricapitalizzazione preventiva è responsabilità esclusivamente, scrive la Banca Centrale Europea, delle autorità italiane e della Commissione Europea. Questo perché appunto il Financial Times ipotizzava una diversità di vedute per quello che riguarda Banca Centrale Europea e Commissione Europea. Ma andiamo sulla borsa per quello che riguarda il resto della giornata. Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, abbastanza interlocutorio come giornata, Eleonora, ma su questo abbiamo visto muoversi oggi non tanto i titoli bancari o risparmio gestito, quanto Tenaris soprattutto. Partiamo da Tenaris e poi andiamo invece anche su Telecom. Sì, Tenaris ha più volte cambiato la direzione di marcia, ma alla fine ha chiuso con un ribasso del 3,7%, uno dei peggiori del FTSE MIB, e nonostante la società tra l'altro abbia annunciato di essere tornata in utile nel 2016 dopo il rosso invece accusato nel 2015. Il mercato è rimasto deluso soprattutto dal fatto che è stato annunciato che verrà proposto un dividendo il 9% inferiore rispetto a quello dell'anno precedente, quindi questa cosa alla fine ha finito per pesare proprio sull'andamento delle quotazioni. E questo per quello che riguarda appunto anche Tenaris. Telecom, dicevamo, Conti, gli analisti erano positivi sul titolo, però ieri c'era anche qualche critica sul settore, non è che si capisca molto anche il giudizio degli analisti, più 1,51%. Però. Ma il fatto è questo, che lo scorso 6 febbraio la società ha presentato un piano industriale di rilancio che è piaciuto molto agli analisti, che tutti hanno espresso, diciamo, giudizi positivi. Fatto sta che dal 6 febbraio a ieri i titoli hanno lasciato sul parterre il 10%, perché di fatto i gestori, pur leggendo, diciamo, i buy dei diversi analisti, sostengono che comunque sia all'orizzonte si profila una concorrenza, che è quella di Enel Open Fiber e sul settore del fisso, e sulla telefonia mobile invece di Iliad, che si dovrà affacciare a breve sul mercato italiano. Quindi nel dubbio preferiscono non comprare le azioni di Telecom. Comunque quest'oggi sono rimbalzate, anche perché, come ho detto, hanno perso il 10% in poche sedute, e in più oggi è andato bene tutto il comparto europeo delle TLC sulla scorta del fatto che Telefonica, annunciando un utile in calo, ha stupito gli analisti, visto che l'utile è in calo per poste straordinarie, ma al netto di queste invece sarebbe stato migliore delle attese. Allora, Eleonora, resta con noi, perché ho appena visto uscire invece i conti preliminari, per carità, del 2016 del gruppo Salini in pregilo, che anticipavo in In apertura siamo in collegamento con l'amministratore delegato del gruppo Salini Pregilo, Pietro Salini. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, li sto leggendo assieme a lei e quindi non ho neanche la capacità di prepararmi e fare delle domande particolarmente cattive. Ma allora, avete superato gli obiettivi 2016, raggiunto gli obiettivi per il terzo anno consecutivo, indebitamento netto a 350 milioni, però avete già nei primi due mesi del 2017 ordini per 1,7 miliardi. Da dov'è che stanno arrivando? Voi siete un gruppo, lo dico per chi ascolta, che opera in 50 paesi con 35.000 dipendenti, un giro d'affari vicino ai 5 miliardi di euro e 33, magari sono anche aumentati, miliardi nel portafoglio ordini. Da dov'è che sono arrivate le notizie più positive nel 2016? Quanto aree geografiche appunto sugli ordini? Salini. Ma diciamo adesso tanto che facciamo più di 6 miliardi e 100 di fatturato. Bene. Quest'anno, quindi qualcosa di meglio. Le aree dove stiamo puntando di più e che sono più importanti per noi sono gli Stati Uniti, dove oramai facciamo oltre il 25% del nostro fatturato e dove pensiamo ci siano occasioni di crescita importante. E questo vuol dire insomma che anche un'azienda italiana, nonostante si sia sempre visto come un paese nel quale forse arrivano più acquisizioni da stranieri che invece buone notizie di acquisizioni, invece si può fare un mestiere. Voi avete comprato la Lane Industries? Abbiamo comprato la Lane Industries, che è una grande impresa americana, numero uno delle strade, numero uno della produzione di asfalto negli Stati Uniti. Adesso si apre un mercato straordinario che si misura in molti triliardi di dollari, numeri che non si riescono neanche a immaginare, e che diciamo significa rinnovare negli Stati Uniti l'intero parco delle infrastrutture per un mercato gigantesco, perché naturalmente le infrastrutture americane sono abbastanza antiche. Avete visto anche recentemente ci sono stati dei problemi su delle dighe che oramai avevano una vita tecnica superata, mettevano a rischio addirittura la vita e la sicurezza di popolazioni importanti. Hanno evacuato 200.000 persone per questa diga di Oroville. Insomma, è evidente che c'è un mercato delle infrastrutture in cui un large player come noi, che esprime questa competenza nelle infrastrutture del numero uno mondiale delle dighe, insomma negli Stati Uniti può dire qualcosa veramente di importante. Ecco, senta Salini, poi passiamo alle altre aree geografiche, ma temete qualcosa sul fronte, lo chiedevo prima anche a chi rappresenta i produttori di occhiali in questo paese, sul fronte che vedono negli Stati Uniti il primo mercato di sbocco, sul fronte Trump o invece operando con imprese anche presenti in quei paesi, appunto l'acquisizione di Lane Industries, siete tra virgolette al riparo da eventuali politiche su dazi e politiche doganali da parte dell'amministrazione Trump? Beh, noi siamo un player americano, quindi prima di tutto non siamo un'impresa straniera, Lane è una delle imprese storiche degli Stati Uniti, ha 125 anni di storia negli Stati Uniti ed è un'azienda totalmente americana. Quindi a cui chiaramente portiamo la nostra competenza del gruppo in tutti i settori, ma insomma è un'azienda del tutto americana, quindi anzi al contrario forse beneficiamo di una certa restrizione. Quasi li volete i dazi, no? Non voglio dire che li vogliamo perché non sembra carino, però certo in una situazione come questa, in cui abbiamo una situazione molto favorevole di riduzione del mercato e di scelta americana per gli americani, insomma noi chiaramente abbiamo fatto una scelta con un tempismo perfetto per essere negli Stati Uniti. Allora, le altre aree geografiche, l'Europa per voi pesa per carità 23%, compresa l'Italia, c'è un peso molto forte che ha, o se leviamo l'Italia che pesa per il 7%, l'Europa pesa solo per un 16%, l'Africa ha superato il peso diciamo dell'Europa senza l'Italia, mettiamola così, al 17%, e poi c'è il Middle East al 25%. Avete intenzione, al di là della parte statunitense che ho capito benissimo con l'acquisizione di Lane Industries, di rafforzarvi soprattutto nel Middle East, nel Medio Oriente e nell'Africa, l'Africa diciamo, subsahariana? Stiamo vedendo diciamo di crescere, ovviamente dove si presentano delle occasioni che ci danno speranze di avere dei buoni risultati, quindi diciamo oggi noi vediamo con grande interesse l'Australia, stiamo ovviamente sviluppando le attività in Europa, stiamo cercando di crescere in Francia dove ci sono delle buone e delle interessanti attività, e perché sono paesi con un rischio sensibilmente inferiore di altri. Nella parte Middle East chiaramente siamo tradizionalmente molto presenti, in Africa siamo market leader, ma diciamo crescendo l'impresa e chiaramente le dimensioni del gruppo, il peso significativo dell'Africa sta scendendo e quindi si riduce anche il rischio generale, perché una delle linee guida del nostro piano industriale è proprio quello di far scendere il rischio del portafoglio e quindi dare una stabilità più ampia ai nostri investors sui risultati futuri. Per quello che riguarda Pana, perché l'America Latina pesa poco per voi, diciamo 4%, la costruzione del canale di Panama, l'ampliamento, l'abbiamo raccontato molte volte, anche in quelle diciamo difficoltà di controversie, poi finite in campo legale che ha avuto, come sta andando? Perché poi ci siamo un po' distratti pure noi sull'ampliamento del canale che difficoltà avete incontrato, visto che insomma avete fatto il grosso dell'operazione? Beh, il canale di Panama è finito, sì. Che significa aver realizzato diciamo forse una delle opere più importanti di questo secolo e forse anche di quello passato, e questo diciamo metterci la nostra bandierina italiana insomma ci dà molto, molto orgoglio essere riusciti a farlo. Oggi ci passano le navi, è una fonte di reddito importante per il paese e anche una delle vie di comunicazione più importanti del mondo. E chiaramente ci sono queste code di gestione della parte legale, sono meno affascinanti che richiedono molta attenzione anche fra stati, perché poi chiaramente stiamo parlando di contenziosi molto importanti. Io purtroppo vi devo lasciare perché c'è una conferenza con gli analisti, sì. Per i risultati. Beh, abbiamo scelto di dare prima a voi. Grazie molte e bocca al lupo a lei e ai 35.000 dipendenti, come sempre facciamo in questi casi. Grazie a Pietro Salini. Io chiedo invece a Eleonora Micheli di restare con noi, perché ho il traffico e poi commentiamo il resto della borsa. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, sì, qualcuno mi chiede, sì, confermo che il gruppo Senin Impregilo è impegnato anche nel terzo valico, la Milano-Genova e l'alta velocità e alta capacità Venezia, o meglio Verona-Padova, e poi in Danimarca nella costruzione della metropolitana di Copenaghen. Andiamo avanti invece col resto della seduta. Eleonora, ti avevo interrotto, oltre a Telecom oggi le banche poco mosse, e poco mosse anche l'intero settore finanziario. Buzzi Unicem invece meno 3%, Case New Holland meno 2,80%, Fiat meno 2,80%. Visto che fra poco parleremo di Opel e PSA, ci sono novità su Fiat? No, su Fiat non ci sono novità e oggi si è mossa appunto al ribasso insieme peraltro della Galassia, come hai detto tu Agnelli, anche a CNH. Semmai sulle banche va rilevato che sono state tutte contrastate, ma con un colpo di reni sul finale. Unicredit ha chiuso in progresso dell'1,14%, ricordiamo che quest'oggi si chiude l'aumento di capitale da 13 miliardi, in serata saranno diffusi i dati su chi avrà sottoscritto l'aumento di capitale e nel caso di inoptato fino al 10 marzo verrà di nuovo rimesso sul mercato, verranno rimessi sul mercato i diritti inoptati per poi chiudersi l'operazione il 10 marzo. Ok, andiamo avanti con il resto del mercato, Case New Holland meno 2,80, diciamo B per meno 1,80, UbiBanca meno 1,30, Mediaset meno 1,12%. Per quello che riguarda invece migliori e peggiori, tra l'altro ST Microelectronics non l'abbiamo commentata, forse ST ha fatto più 0,9 perché ricordiamo tra l'altro che ST è stato il miglior titolo del 2016 anche nel 2017 continua a correre al punto che proprio oggi è tornata sui livelli che non vedeva dal 2007. Diciamo, a riaccendere quest'oggi i riflettori su ST è stata la notizia che Tesla a partire da luglio, a partire dalla prossima estate, produrrà il modello 3 delle auto. E gli analisti già suppongono che ST insieme alla tedesca Infineon forniranno semiconduttori. Va detto che per i modelli diciamo Tesla i semiconduttori necessari sono in quantità esorbitante, esponenzialmente superiore rispetto alle macchine tradizionali e quindi è un vero e proprio business per ST. Allora, un po' di pazienza chi mi chiede del Monte dei Paschi, stiamo per parlarne, invece Generali meno 1%, qui oggi su Generali la notizia più forte a mio avviso è il comunicato, anzi la dichiarazione del CFO, del responsabile finanziario del colosso francese AXA, sappiamo che sono Allianz, AXA e Generali, i tre colossi delle assicurazioni a livello europeo, che ha detto una fusione di AXA con Generali era, diciamo, si era molto speculato su questo asse francese, visto che Donet è francese, francese, da lì viene, e poi c'era anche il ruolo di Moustier in Unicredit e quant'altro. Però il numero uno di responsabile finanziario di AXA, Gérald Harlin, o Harlin per essere più precisi, dice che una fusione di AXA con Generali non è all'ordine del giorno. Forse anche questo ha contribuito Eleonora un po' a sgonfiare il titolo? Sì, infatti i titoli hanno lasciato sul parterre l'1%, peraltro la linea di AXA è quella che era emersa già nelle scorse settimane, ma in questo caso il mercato continua a interrogarsi su quelle che saranno le mosse di Intesa, che comunque ha fatto meno 0,75%. Anche... secondo me anche Intesa si interroga sulle mosse di se stesse, non ho più capito, possibile. Non ho più capito, insomma, forse c'è qualche problemuccio, ce l'hanno, ma insomma andiamo avanti, no, nel capire che strategia, non problemuccio come in banca, ci mancherebbe, ma nel capire la strategia dopo la mossa del cavallo, l'arrocco, diciamo, fatto da generali che appunto sono salite fino al 4, scenderanno al 3, lo abbiamo spiegato nei giorni scorsi, però per ora è generali che si è comprato un pezzo di Intesa e vediamo, obbligando poi con la regola delle partecipazioni incrociate, Intesa non poter salire più della simile quota in generali. Andiamo su migliori e peggiori. Italia Independent più 23,45%, Premuda più 13%, Sintesi più 11%, Net Insurance più 10,90%, MNC più 9,26%, fronte opposto invece Industria Innovazione meno 9%, Ross con 3S meno 5,82%, CIA meno 4,70%, Gambero Rosso meno 4,50%, CT Biofarma meno 4,40%. Grazie, Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24. E dopo il GR24 parliamo del Monte dei Paschi, non per il botta e risposta, insomma, BCE e l'articolo del Financial Times, ma per capire oggettivamente che sta succedendo, perché se non ricordo male l'autorità di borsa aveva detto: attenzione, entro fine mese o tornate a essere trattati o vi leviamo proprio dal mercato. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, GR24, poi Generali e Opel. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure dei Roni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15:30 tutti i giorni su Radio 24. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, il Monte dei Paschi. Oggi non ci occupiamo di Alitalia, ma del Monte dei Paschi. Perché? Non perché sia successo nulla di particolare, ahimè, lo dico anche per chi continua a chiedermi, ma quando verranno riammesse in quotazione le azioni del Monte dei Paschi? No, vorrei fare il punto perché il Financial Times, devo dire che torna su un tema già sollevato da Sole 24 ore, non lo dico per obbligo di scuderia, ma è così. E cioè dice, insomma, l'intera vicenda del Monte dei Paschi, dopo che il governo italiano, la sintetizzo male, ma adesso Marco Ferrando ci aiuterà a capire di più, l'intera vicenda del Monte dei Paschi, dopo che il governo italiano ha varato il decreto salvabanchi, 20 miliardi, di cui 8 miliardi e 6, adesso vedremo quanti in tutto serviranno al Monte dei Paschi, è in stallo perché c'è un rimpallo, diciamo, delle responsabilità decisionali tra la Commissione Europea e la Banca Centrale Europea. Sembra, vista così, che il Monte dei Paschi faccia da test, diciamo, anche alla prima da test empirico alla prima operazione del genere in cui BCE, Mario Draghi e Commissione Europea devono mettersi d'accordo su chi fa che cosa, chi ha le qualifiche per dire che cosa e per dare anche il via libera. A me è sembrato un po' uno oscillare tra Scilla e Caridi, se posso dire. Marco Ferrando, buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Qual è l'oggetto del contendere, visto che i soldi l'Italia, o meglio appunto il decreto, li metterà tra BCE e quindi tra Francoforte e Bruxelles? L'oggetto è la cura di fatto a una patologia su cui sia BCE che Commissione concordano, cioè il Monte dei Paschi ha bisogno di capitale. Il problema è che, secondo la Banca Centrale Europea, più capitale c'è, meglio è. Per la Commissione, invece, meno ce n'è, meglio è, soprattutto nel caso in cui, come nel Monte, si tratta di capitale pubblico. E quindi, è come, tentando un esempio, è come mettere d'accordo un dietologo e una nonna abituata a riempire di cibo il nipote. Non potranno mai mettersi d'accordo sul pranzo ideale del quindicenne, perché per uno più cibo c'è, meglio è, perché il capitale per la BCE è evidentemente il primo dei punti per difendere la solidità e anche la redditività di una banca, mentre la Commissione Europea, trattandosi di capitale pubblico, quindi di aiuto di Stato, richiede che l'intervento sia il minore possibile, così che anche lo Stato potrà uscire più facilmente. Il Monte deve trovare una via di mezzo, una mediazione sulla propria pelle, e così si spiega l'allungamento dei tempi. Però qui c'è anche un altro aspetto. Allora, mentre oggi un portavoce della Banca Centrale Europea oggi ha chiarito alle agenzie che un accordo sulla ricapitalizzazione preventiva è responsabilità esclusivamente delle autorità italiane e della Commissione Europea, come dire che si metta d'accordo Roma con Bruxelles se e quanto deve essere l'ingresso dello Stato, io pensavo che questo tema fosse stato abbastanza chiarito, perché la cosa singolare è che i parametri, diciamo, di questo ingresso non li dà Bruxelles, li dà la BCE, che ti dice: attento, tu devi avere un patrimonio di questo tipo rispetto alle sofferenze che hai, il patrimonio te lo sei mangiato, devi aumentare il patrimonio, ricapitalizzare, non si trovano soldi sul mercato perché è fallito il piano di Morelli, quello di dicembre, praticamente nessuno ha sottoscritto l'aumento di capitale, e a sto punto questi soldi devono arrivare dallo Stato. Cioè il livello dell'asticella lo mette la BCE, però poi dice: l'accordo spetta tra Roma e Bruxelles. Sì, è così. Non dimentichiamo che era il giorno dopo Natale, il 26 dicembre, la BCE mandò quella lettera al Tesoro in cui, spiazzando anche il ministro Padoan, disse: i 5 miliardi che avevano detto sufficienti fino a pochi giorni fa non bastano più, sono 8,8. Quindi per la BCE 8,8 miliardi è il fabbisogno. Se non che la Commissione Europea deve autorizzare la banca a ricevere quei soldi, tra l'altro ricordiamo 6,6 dallo Stato e l'altro l'altra quota degli obbligazionisti, alla luce di un piano industriale che la banca sta preparando e ha difficoltà a preparare, perché deve essere un piano industriale che consente non solo di prendere quei soldi ma anche di restituirli. E ora è evidente che una banca che ha tutta una serie di paletti, che sono quelli posti alle aziende che beneficiano di aiuti di Stato, tanto più soldi riceve, tanto più farà fatica a restituirli. Anche perché non dimentichiamo che più capitale hai, più devi fare utile per remunerare quel capitale e quindi essere interessante per il mercato. Sì, però, ripeto, questo vuol dire, cioè, questa richiesta è arrivata dalla BCE, non è arrivata da qualcun altro, per cui è anche singolare dire: la BCE chiede 8 miliardi, di cui 6 miliardi e 6 arriveranno dallo Stato, però la Commissione Europea obietta, cerca di usarne il meno possibile, ma la richiesta, ripeto, non è frutto di così una valutazione interna al Monte dei Paschi, la Banca Centrale Europea che ti dice quanto. Tra l'altro questo va anche a complicarsi per la richiesta che è arrivata dall'autorità di borsa, cioè quanto può stare sospeso sto titolo? In teoria ancora meno di una settimana, si era detto entro fine febbraio o torni oppure sarai sospeso ad libitum, e il piano, si era capito che la variabile anche qui era questo piano industriale, che quindi avrebbe dovuto determinare ammontare della ricapitalizzazione, ritorno, insomma, i nuovi target eccetera. Questo piano sicuramente entro il 28 febbraio non ci sarà, e quindi è probabile che la sospensione duri ancora a lungo. No, viene da dire che questa strettoia è l'ennesimo cortocircuito politico, perché, cioè, noi abbiamo una BCE, per dire, non dimentichiamo che da un lato dà i soldi alle banche a tassi bassissimi per consentire i prestiti, e dall'altra però chiede di aumentare il capitale, quindi una contraddizione interna alla BCE. In questo caso la contraddizione tra BCE e Commissione, dovrebbero mettersi d'accordo, ma servirebbe una mediazione politica che di questi tempi sembra particolarmente difficile da trovare, soprattutto il tema banche. Soprattutto sul tema banche, sì, mi sembra veramente che però anche più la Commissione Europea attende a dare una risposta, più la situazione si incancrenisce, nel senso che il Monte dei Paschi deve cercare di dare un piano industriale, evidentemente forse ha difficoltà nel metterlo giù nel dettaglio finché non ha una risposta da Bruxelles, cioè stiamo entrando in un circolo vizioso da questo punto di vista, quando ormai lo scoglio più grosso, ed era, è anche quello più doloroso per noi contribuenti italiani, e cioè l'ingresso dello Stato dentro il Monte dei Paschi, è già stato risolto, nel senso che la Commissione Europea non ha mai detto, ci fu una lunga trattativa, ricorderete, con Bruxelles, non ha mai detto no, se lo fate sono aiuti di Stato. Quindi adesso mi sembra che ci si stia bloccando sull'ultimo miglio, Marco. Sì, è così. Il Monte sta scrivendo una storia che nessuno prima di lui ha mai scritto, perché è la prima banca che si trova in questa situazione, cioè all'incrocio tra la nuova normativa sugli aiuti di Stato e le norme sulla vigilanza unica, perché comunque negli anni passati non avrebbe deciso la BCE, non avrebbe, e la Commissione non avrebbe avuto lo stesso potere che ha in questo momento sugli aiuti di Stato. La piattaforma, l'accordo teoricamente c'è, perché come dicevi è stato raggiunto dal Tesoro con la Commissione e dalla Banca con BCE, però all'atto pratico manca il piano che dovrà ricevere i due timbri. Allora, nel salutarti e ringraziarti, però insomma la settimana prossima deve arrivare sto piano. Ma non arriverà, perché noi adesso abbiamo notizie di un consiglio giovedì 2, il consiglio già in agenda per fare l'approvazione definitiva dei conti del 2016, ma da quello che risulta non siamo ancora al buono per arrivare al piano. Si parla di maggio, giugno per chiudere questa partita, ed è molto grave, perché noi non dimentichiamo che le nostre recenti vicende bancarie, il Monte, le Good Banks, le Popolari Venete, dimostrano che gli asset bancari si deteriorano in frettissima, per cui più si tiene a bagnomaria una banca e più la banca perde valore. E quindi lo dico agli ascoltatori, scordatevi una riemissione in settimana del titolo a questo punto. Cioè, direi probabilità bassissima. Pari quasi a zero. Grazie Marco Ferrando, andiamo sul traffico e poi invece una vicenda che altro che lenta, si sta chiudendo con tempi rapidissimi, tempi lampo, e mi riferisco all'acquisizione da parte di PSA, Peugeot Citroën, del marchio Opel, proprietà di General Motors. Focus Economia. Allora, Blitzkrieg, se non ricordo male, era la guerra lampo tedesca di Hitler. Non vorrei fare accostamenti impropri, però qui il Blitz c'è stato, ma al contrario. Ossia Francia su Germania, Opel è di General Motors, quindi la partita si giocava con il costruttore di auto americano. Però quando raccontammo la notizia in discrezione, Nella stessa giornata già i metalmeccanici tedeschi, i potentissimi metalmeccanici tedeschi, i Gemetal, erano insorti dicendo no, attenzione, non come avvenne quando la proposta di acquisto fu ventilata dal gruppo Fiat e da Marchionne. Invece poi tutto si è risolto, sembra risolversi molto velocemente. C'è un flash d'agenzia appena battuto in cui i governi di Francia e Germania esprimono il proprio sostegno all'acquisizione di Opel, gruppo General Motors, da parte di PSA. Una mail congiunta di entrambi i governi, vogliono chiarezza il più presto possibile sul futuro delle due società, anche per i lavoratori e i siti di produzione. Entrambe le società, si legge nella nota, dovrebbero mantenere ciascuna il proprio brand e disporre di un adeguato management, e il gruppo post-fusione ha bisogno di una strategia percorribile di lungo termine. Ma Andrea Malan, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, non so se il tuo riferimento al Blitz era casuale o voluto, ma sai che il marchio della Opel in tedesco è il Blitz, il lampo. Sì, vabbè. No, non era voluto, però hai fatto bene a farmelo notare. No, dico una cosa, ma scusami, ma non erano due gruppi privati questi? No, perché io capisco tutto, ma che i governi indichino anche che ognuno deve gestire il proprio brand, disporre, ma perché non gli fanno un piano industriale direttamente a Parigi e Berlino? Beh, diciamo poco, perché è caduto Andrea Malan. Allora io vado avanti intanto con l'operazione mentre stiamo riprendendo, spero che non fosse un'interferenza dalla Germania. Allora darebbero vita, o daranno vita a sto punto, al secondo costruttore europeo per volumi, ossia 16% delle vendite dopo Volkswagen, che si attesta al 24%. PSA ha 10 stabilimenti in Europa, Opel ne ha 11. I dipendenti sono nettamente più numerosi quelli di PSA, di Peugeot Citroën, 184.000 e 34.000 invece i dipendenti Opel, di cui metà in Germania. Ecco, abbiamo ripreso Andrea Malambo. Andrea, Dicevo, cioè, manca solo che i due governi scrivano un piano industriale. Sì, no, dicevo, per aziende di questa importanza e con questo peso anche sui posti di lavoro è in qualche modo normale in Europa che succeda così, non succede solo nel settore auto e non succede solo in Francia o in Germania. Detto questo, oggi io ero alla presentazione fatta da Carlos Tavares, il numero uno di Peugeot, dell'operazione, e Tavares è stato molto abile, ha detto noi conserveremo Opel come azienda tedesca, anzi il fatto che sia tedesca ci fa comodo perché noi abbiamo due marchi francesi, le macchine francesi non piacciono dappertutto, in alcuni mercati non le vogliono o comunque non hanno un grande successo, il fatto di acquistare un marchio tedesco è per noi un grande vantaggio, lo conserveremo e lo valorizzeremo. Sul tema più delicato, quello dei posti di lavoro, ha detto che Peugeot ha ribadito, diciamo, quello che aveva già detto ai politici, cioè Peugeot rispetterà tutti gli impegni che il management di Opel aveva preso con i sindacati, in particolare nessun licenziamento fino a fine 2018 e investimenti per i vari impianti tedeschi fino al 2020-2021. Più in là ha detto negozieremo noi con i sindacati poi della Opel se l'operazione andrà in porto con la coerenza e l'apertura, la trasparenza che ci contraddistingue, quindi non ha escluso che in futuro possano esserci dei tagli. Ricordiamo però che tu giustamente l'hai presentata come una vicenda franco-tedesca perché è principalmente tale. La Opel però ha anche 3 impianti in Inghilterra, ne ha in Spagna, così come in Spagna ne ha la Peugeot, quindi non è escluso che se qualche taglio ci dovrà essere possa arrivare anche non nei due paesi principali. Venendo alla parte industriale di questo accordo, visto che i marchi devono essere rispettati e anche il perimetro occupazionale per quello che riguarda Opel come frutto dell'accordo con i sindacati, poi concretamente questa acquisizione come si svilupperà nei prodotti e nei modelli? Cioè resteranno modelli diversi? Avranno quelle che si chiamano piattaforme comuni? Sì, avranno piattaforme comuni, come forse agli ascoltatori hanno saputo nei giorni scorsi, Peugeot e Opel hanno già delle joint venture. Producono già un paio di modelli in comune, in particolare nei monovolume, nei SUV, approfondiranno questa sovrapposizione, quindi ottimizzeranno le piattaforme avendo delle gambe abbastanza simili. La Opel Crossland X, no? Esatto, che vedi è appena che stata presentata. Che mi sono preparato. Certo, poi c'è la futura Meriva, ce ne sono una serie, adesso non me li ricordo tutti. Comunque diciamo si proseguirà su questa linea per ottenere delle sinergie. Per dare un'idea agli ascoltatori, l'obiettivo che ha detto oggi Tavares è portare Opel al livello di redditività di Peugeot, cioè 6% del fatturato, che significa arrivare a guadagnare oltre 1 miliardo di euro l'anno. L'anno scorso ha perso 300 milioni, la Opel quindi significa fare un balzo di quasi 1,5 miliardi di euro. Senza chiudere impianti e senza licenziare non sarà facile, cioè solo con le sinergie sulle piattaforme e ottimizzando la ricerca e sviluppo non sarà facilissimo, però uno degli attu di Tavares è effettivamente che lui ha detto io ci sono riuscito, alla Peugeot abbiamo raddrizzato i conti in 3 anni, oggi ha presentato un bilancio con un utile netto di oltre 2 miliardi di euro, per cui dice, le credenziali io le ho, datemi fiducia. Eh sì, devo dire che i conti sono inequivocabili perché l'utile netto in Peugeot Citroën è passato da 1 miliardo e 200 milioni dell'anno scorso a 2 miliardi e 150 milioni nel 2016, più 79%. Insomma, la cura Tavares, Carlos Tavares, che come dice il nome non è francese, ma sta funzionando. È portoghese Tavares, se ricordo bene. È di padre portoghese e madre francese. Vabbè, quindi ci ho imbroccato per metà. L'altro tema che vorrei affrontare con te però è cosa faranno i concorrenti, in particolar modo, visto che parliamo dall'Italia, il gruppo Fiat Chrysler, perché a suo tempo Marchionne non riuscì a fare l'operazione per l'opposizione dei sindacati e anche di parte della politica tedesca. Quanto sta risvegliando questa operazione il cosiddetto risico delle alleanze e quanto potrebbe anche avere un effetto su questa ipotesi di cui molto si parla ma poco di concreto si è visto, ossia molto caldeggiata da Sergio Marchionne, ossia l'operazione Fiat Chrysler con General Motors? Allora, il rischio delle alleanze sicuramente sta andando avanti abbastanza. Se questa operazione andrà in porto, in realtà non rimarranno molti partner disponibili sul mercato, nel senso che la Mitsubishi è stata di fatto comprata dalla Nissan. se Opel finisce alla Peugeot, in Europa sono più o meno tutti accasati, la Suzuki è stata, dopo aver lasciato Volkswagen, è finita alla Toyota, la Daimler stessa, uno dei marchi premium, ha l'accordo con la Renault, resta BMW di indipendente e resta, come hai detto, l'ipotesi General Motors. General Motors, che lo ricordiamo, se vende la Opel rimane totalmente priva di una presenza in Europa. È proprio questo punto che induce la maggior parte degli osservatori a dire che se va in porto Peugeot Opel, l'operazione GM Fiat diventa più probabile, cioè GM rimane senza una presenza in Europa, di fatto non c'è più nessuno da comprare, quindi il fatto che Fiat comunque abbia un 5-6% di quota di mercato in Europa aggiunge un'attrattiva, diciamo, per General Motors, che finora è stata piuttosto... Sì, scusami, piuttosto, però Andrea, ma lì sarebbe General Motors che compra Fiat, Chrysler, Fiat Chrysler che compra GM, o addirittura un accordo alla pari, perché insomma ne ho visti pochi. Beh, alla diciamo pari. Che allora in borsa le due aziende hanno ancora di valori molto diversi, GM vale circa il triplo di Fiat Chrysler, quindi anche in una fusione carta contro carta gli azionisti di Fiat Chrysler, in particolare la Exor, finirebbero per avere una quota di General Motors relativamente piccola, sarebbero sicuramente tra i primi azionisti ma avrebbero una quota tra il 5-8%, adesso vado a memoria, dipenderà naturalmente dai termini, dipenderebbe dai termini dell'operazione. Quindi GM è una public company, quindi di fatto si creerebbe una public company ancora più grossa, che sarebbe la più grossa nel settore auto e una delle poche insieme alla Daimler. E l'ultima domanda che giustamente mi pongono gli ascoltatori: ma che cos'è che ha fatto cambiare idea ai sindacati tedeschi, all'inizio molto molto scettici, alcuni scrivono come sempre, no, agli italiani, pur di non darla agli italiani, non danno ai francesi, non so se ci fosse un problema di bandiera, anche perché l'interesse di Marchionne per Opel di un po' di anni fa, magari è cambiato lo scenario nel frattempo, ma cos'è che ha convinto i sindacati tedeschi? Beh, secondo me due cose. Uno sono appunto le rassicurazioni sul fatto che gli impegni almeno fino al 2020-2021 verranno mantenuti, quindi nessun licenziamento, nessuna chiusura di stabilimenti. E due, quello che ha detto Tavares stamattina all'inizio della conferenza: Opel ha perso 1 miliardo di euro l'anno per 10 anni. Loro stessi sanno che non possono andare avanti così. Cioè General Motors è stato un padrone per Opel, diciamo, che ha tentato di rilanciarla per parecchio tempo facendo degli errori eccetera, tra l'altro comunque i conti sono molto migliorati, ci sono stati anni qualche anno fa in cui perdeva oltre 1 miliardo, l'anno scorso ha perso 300 milioni di dollari e basta, quindi i conti sono già avviati verso il pareggio, però anche strategicamente è sempre stata un po' un secondo pensiero per General Motors, non è mai stata al centro della sua attenzione. Quindi una vendita in questo caso a un gruppo che Tavares, abbiamo detto, ha dimostrato di saper risanare, potrebbe dare un'occasione effettivamente in più, con tutti i limiti e con il limite principale che Peugeot Opel sarebbe un gruppo principalmente europeo, quindi molto concentrato sul mercato europeo. Grazie anche Andrea Malan del Sole 24 Ore, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barigioni l'auguro di buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, tornerà come ogni venerdì da poco invidiabile classifica di Focus Economia. Radio 24, libera la voglia di fare.